Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Certo che avere il polso che puoi usarlo per telefonare. Sì, lo chiamano smartwatches, però non so se chi lo usa è proprio smart. Molto. Vabbè. Parleremo di ciò fra poco. Benvenuti a Mebius, adesso i titoli. I flop tecnologici dell'anno appena passato. Troppi strumenti fanno le stesse cose. Ma dove stiamo andando? Indossereste tessuti nanotecnologici? Facciamo il punto sullo stato della ricerca. L'Istituto Italiano di Tecnologia sta studiando le future applicazioni e la nanotossicità. La mantide orchidea, la rana muschio, il pesce fuor d'acqua e la cimice assassina sono i protagonisti di Zanne, corazze e veleni. Per dare conforto a un malato di Alzheimer e per assisterlo nel migliore dei modi, è bene imparare un linguaggio che non è fatto soltanto di parole. Ma non c'è solo l'orologio da polso che non ha funzionato, c'è molto di più. Stanno andando in cantina anche che cosa? I personal computer? Anche i personal computer. Qualcosina c'è. Qualche cosa su con Twitter, addirittura blog. Beh, ma insomma, adesso ci arriviamo. Sì, sì. È nostro ospite questa sera, Francesco Marino. Ciao Francesco. Buonasera a tutti. Direttore di Digitalic, rivista specializzata nella perlustrazione, diciamo, di tutte le tecnologie. Nel numero adesso in alcune edicole, Roma, Milano, soprattutto negli aeroporti e stazioni, ma soprattutto è online, no? Online, Francesco? Facilissimo, digitalic.it. Digitalic.it, c'è questo numero nel quale voi avete fatto un'analisi dei flop tecnologici del 2013. E uno da cui ci sembrava interessante partire era... Tu, adesso ne abbiamo anticipato qualcuno, però sicuramente interessante è che il PC, il personal computer, sta andando in cantina un po', perché vabbè, è un po' surclassato dagli smartphone, e immagino. E vedrai che poi ne parliamo, non è così banale. Quanto sono scese le vendite dei PC? Ma il PC è sceso più del 10% nell'ultimo anno, nel 2013, e proviene comunque da un andamento negativo, quindi è un'ulteriore perdita che si aggiunge su un trend negativo. Il PC ha perso un po' la centralità sulle scrivanie degli italiani, delle persone di tutto il mondo, e viene rimpiazzato da altri dispositivi come ad esempio lo smartphone o il tablet. Più a livello domestico, perché magari sul luogo di lavoro invece la scrivania col computerone è sempre comodo. Sì, negli uffici sicuramente il trend è meno intenso, però anche lì molto spesso alcune figure che venivano dotate di un PC, soprattutto di un notebook, vengono oggi dotate di un dispositivo alternativo, che può essere uno smartphone o un tablet. Ecco, poi un altro invece mi sembra piuttosto importante e anche un po' mi stupisce, questo smartwatches, cioè gli orologi intelligenti attraverso i quali si può fare di tutto, parlare, fare telefonate, ricevere messaggi, l'ultima cosa è guardare l'ora, per di capire, però anche questi non dovevano, benissimo. Tu nella tua recensione dici da riprogettare, per precisione. Sì, doveva essere proprio l'anno dello smartwatch, perché un po' incarna il sogno di tanti, alla Dick Tracy o alla Star Trek, di parlare nel polso e di comunicare con tutti, quindi ha sicuramente un grande fascino sugli utenti e sulle persone. Il problema è che questi smartwatch per il momento non hanno trovato una loro reale collocazione, una loro reale anima. Sono molto diversi tra di loro, si è cercato di costruirli con una logica molto tecnologica, quasi da PC, mettendo all'interno tutte le funzioni possibili. In realtà forse non è quello che vuole l'utente, e non si è pensato al fatto, o non si è pensato abbastanza al fatto, che visto che vanno a finire su un polso devono essere innanzitutto belli da indossare. L'orologio è da sempre un oggetto a cui le persone tengono particolarmente, uno status symbol, e per finire sul polso bisogna innanzitutto essere oggetti di design e belli da portare, prima ancora che ricchi di funzioni. In effetti a vederli sembrano un po' dei cipolloni un po' troppo grossi. Sì, poi diciamo che non è che sembriamo proprio intelligentissimi se parliamo col polso, però vabbè, insomma, okay, da riprogettare, sì. Sono d'accordo. Sì, sì, perché questa roba vicino alla bocca diventa tendenzialmente ridicola. Non poi, veramente smart. smartphone. Poi mi domando anche che se la conversazione è lunga ti viene il dolore immenso. Ti viene una tendinite. Ci si svilupperanno dei poggiabraccio per riuscire a... Ma non ti preoccupare, si scarica prima la batteria. Ecco. Ah, perché è giusto, c'è anche quel problema lì. No, invece l'altro tentativo che proprio tu hai giustamente nella tua recensione metti hashtag cancelletto cambia, cioè non è andato bene, è un po' il tentativo di Facebook di utilizzare il linguaggio di Twitter, cioè all'interno dei post di Facebook mettere gli hashtag, mettere le chioccioline, cancelletti, cioè twitterare Facebook. Niente, un fake verrebbe da dire. Sì, un fallimento questo tentativo di creare, diciamo, delle aggregazioni per contenuti basandosi sugli hashtag, che è la forza di Twitter e che su Facebook non ha funzionato perché non è nato in Facebook. Sicuramente è importante riuscire a trovare su Facebook delle notizie coordinate per tema e Facebook sta cercando altre strade, ha appena annunciato un sistema che si chiama Paper, che vedremo nelle prossime settimane, che è proprio un aggregatore di notizie, un giornale digitale fatto con le notizie pubblicate dai nostri amici su Facebook. Ma dove diavolo stiamo andando? Perché qui abbiamo un'infinità, insomma, tanti oggetti con una forte sovrapposizione di funzioni fra di loro. Dove andiamo? Ma non nel 2014, in linea di tendenza fra qualche anno, cos'è che succederà secondo voi super addetti? Beh, sicuramente in questo momento c'è una moltiplicazione degli oggetti che cercano di svolgere al meglio alcune funzioni e ne fanno anche altre. In linea di tendenza, per quello che possiamo vedere, ci saranno oggetti per funzioni più specifiche, quindi magari un oggetto centrale che in questo momento si immagina essere lo smartphone, con intorno altri dispositivi per attività più selezionate e più specifiche. Quindi ci sarà in linea di tendenza una divisione, una diminuzione delle sovrapposizioni. Sì, una diminuzione delle sovrapposizioni con diciamo oggetti, un numero di oggetti magari inferiore a quelli che oggi possiamo ipotizzare e che svolgano bene funzioni, diciamo, anche piccole e si coordinano con un centro che è, sarà probabilmente il telefonino. E tu credi che questa tendenza sia determinata dall'utente che allora decide che lui col telefono vuole solo telefonare e non vuole fare il caffè, oppure dalle grandi brand tecnologici che decidono loro da che parte andare? È difficile capire dove sia iniziato il trend. Sicuramente l'utente preferisce un oggetto semplice da usare, proprio per la moltiplicazione dei dispositivi, la difficoltà di barcamenarsi tra software differenti. Oggi uno degli elementi a cui punta l'utente è proprio la facilità nell'utilizzare uno strumento, e questo è dato ovviamente da una riduzione delle funzioni che svolge e da una buona capacità di coordinarsi con gli altri oggetti che possediamo. Cioè, questo voi da facendo indagini è un dato che emerge. Il problema è che invece le aziende, per ragioni di mercato, non vanno molto in questa direzione al momento. Beh, c'è sempre in questo momento in cui appunto nascono nuove tipologie di prodotti, dallo smartwatch agli occhiali intelligenti, ovviamente c'è un po' una lotta di mercato, quindi ognuno cerca di occupare la fetta più ampia possibile di mercato e quindi di funzionalità. È ovvio che alla fine di questi scontri le posizioni, diciamo, si consolideranno e avremo probabilmente meno oggetti con funzioni più specifiche. Questo è l'orizzonte che voi vedete. Bene. Va bene, grazie Francesco. Buon lavoro. Grazie a voi. Ma la cara vecchia tecnologia delle automobili resta quella che è sostanzialmente. Vediamo cosa combinano sulle strade. Voi sapete che Moebius ha a che fare con dei progetti europei, cioè partecipa a dei progetti europei, la radio, Radio 24, e questi progetti europei hanno sempre come mission, come si dice nel gergare di questi progetti, andare a indagare delle nuove tecnologie e in che modo queste nuove tecnologie sono percepite dal pubblico, il che significa fare comunicazione su queste ricerche e poi andare a vedere che cosa è, per esempio, voi che siete in ascolto, ne pensate di uno dei tanti aspetti di queste tecnologie. E infatti vi già preallerto che dovrete alla fine andare a un sito, il sito della nostra trasmissione www.moebiusonline.eu, e lì troverete delle indicazioni per partecipare a un semplicissimo piccolo sondaggio, che però, insomma, per esprimere la vostra opinione sarà importante che abbiate ascoltato appunto quello che vi stiamo per dire. Allora, Moebius è all'interno, fa parte del progetto Nano Opinion, che si interessa appunto di nano tecnologie. E il tema che affrontiamo oggi è quello dell'applicazione delle nanotecnologie nel campo molto vasto dei tessuti, delle cose che indossiamo oppure dei tessuti che possiamo, con i quali possiamo avere relazioni nei momenti più diversi, per esempio le tende da campeggio, tanto per citarne uno, ma insomma abbiamo tessuti da tantissime parti. Per parlare allora di questo tema e per vedere com'è la ricerca e come sono le indagini sulla sicurezza in questo campo, abbiamo due ospiti che salutiamo. Allora, cominciamo con Attanasio. Attanasio, buonasera. Buonasera. Lei fa parte dell'IIT, che è l'Istituto Italiano di Tecnologie, quello di Genova, la sede di Genova, e fa parte del gruppo di Smart Materials, cioè materiali intelligenti, che è del Dipartimento di Nanofisica dell'IIT. E poi abbiamo anche Pierpaolo Pompa. Buonasera Pompa. Buonasera. Lei è sempre dell'IIT, ma la sezione di Lecce, e lavora all'interno del Centro per le Nanotecnologie Biomolecolari e si interessa in particolare di tutto ciò che è la verifica, come dire, di effetti, di problemi di tipo tossicologico. Io direi forse è doveroso iniziare facendoci un po' capire che cosa sono i nanotessuti, che tipo di applicazioni hanno, li conosciamo già e non sappiamo che questi siano, insomma. Attanasio, ci esponga un po' qual è il settore della vostra ricerca. Sono i normali tessuti che indossiamo ogni giorno, vediamo ogni giorno, però sono cambiati con le nanotecnologie. Dicendo nanotecnologie, voglio dire nanoparticelle che entrano dentro queste, le fibre dei tessuti. Queste particelle hanno ovviamente dimensioni molto molto piccole, per questo andiamo su nano, che si usano per diverse applicazioni nell'ambito dei tessuti. Per esempio si usano per schermare l'ultravioletto, e queste sono particelle di ossido di zinco, ossido di titanio, che si possono usare per tende per l'esterno, per vestiti. Cioè sì, materiali che in qualche modo hanno una protezione intrinseca ai raggi solari. Esatto, okay. Esatto. Che quando li indossiamo si possono proteggere, o sotto una tenda si proteggono dall'ultravioletto. Una cosa che adesso c'è abbastanza in mercato sono le particelle dentro gli indumenti antibatterici. Antibatteriche. Le particelle antibatteriche che sono contro i cattivi odori e queste sono di solito particelle di argento o rame o anche ossido di titanio. Mm. E queste si possono trovare su magliette, pantaloni, scarpe, intimo, calze, no? Sì, calze soprattutto, ma anche tappeti. Altre applicazioni sì, possono essere tessuti che sono idrorepellenti. Ah, giusto. Sì, autopulenti, fosforescenti, antistatici, per esempio quando tocchiamo la macchina, quando usiamo delle macchine non prendiamo più la scossa. Ah, ok. Ah, in questo caso sarebbero messi sui sedili, per esempio, e sui tappetini. Anche, esatto, esattamente. Queste sono soprattutto particelle metalliche o particelle di carbonio che conducono l'elettricità e per questo diventano antistatiche. Si, si scarica l'elettricità e non si prende più la scossa. Esatto, esatto. E quelli fluorescenti, scusi, dove... Possiamo pensare indumenti per quelli che lavorano per strada la notte, per sì? Esempio, no? Sicurezza, allora, quindi. Sì, sì, sicurezza, soprattutto sicurezza. Quindi però non funzionerebbero con un sistema catarifrangente come, diciamo, gli indumenti di adesso, che già ci sono. Ma hanno proprio una trama, in qualche modo, che produce luminosità. Esatto, questa è una proprietà intrinseca del tessuto, che è fluorescente o anche fosforescente. Mm-hmm. Ok, e qui ci sono delle particelle particolari? Nanoparticelle organiche che si usano, perché sono anche particelle inorganiche, hanno una fosforescenza molto alta, però queste sono abbastanza nocive, allora non si usano per questo ambito. Sì, mm-hmm. Sì. E un'altra cosa molto interessante, per esempio, sono i tessuti che sono ignifughi o possono ritardare, certo, la fiamma. E questi si usano per tessuti per automobili. Sono anche quelle particelle, nanoparticelle inorganiche di solito nanoargilla in combinazione con idrossido di magnesio, che hanno queste proprietà, le particelle, quando si mettono dentro i tessuti danno le loro proprietà ai tessuti. Sì. La cosa bella di queste particelle nanotecnologie è che i tessuti possono avere diverse funzionalità tutti insieme, perché puoi mettere diverse particelle con diverse proprietà che tutte queste particelle passano ai tessuti. Cioè un solo tessuto può essere ignifugo, può essere bioluminescente, può essere protettivo per i raggi ultravioletti, insomma può avere molte caratteristiche insieme. Si possono sommare. Qui non stiamo parlando di vernici nano, no? Di film molto sottili che vengono spalmati sui tessuti. No, non parliamo di questo. No? Parliamo di solito quello che è già in mercato sono fanno impregnazione delle nanoparticelle dentro le fibre, uh-huh. o mischiano le fibre, se le fibre sono sintetici di polipropilene per esempio, le mischiano prima con le particelle e poi fanno l'estrusione delle fibre che hanno già dentro le particelle. Quindi è proprio il filo che è trattato, esatto. Nanotecnologicamente. Esatto. Certo. Ma ad esempio, scusi, in commercio esistono questo tipo di materiali? Cioè lei ci diceva, ad esempio, forse quello più familiare è il tessuto antibatterico. Ecco, sì. In commercio qualcosa c'è già? Sì, sì. Okay. Sono molti prodotti in commercio. Con pro o contro diverse cose. Sono soprattutto perché se le problematiche sono, a parte dalla tossicologia che Piero Pompa parlerà adesso dopo, lo sentiamo, certo. Sono anche che se le nanoparticelle sono impregnate dentro le fibre, dopo un po' di washing delle fibre, di lavaggi, lavaggi vanno via, allora non è più efficace. Il prodotto non funziona più. Certo. Noi abbiamo sviluppato una nuova tecnologia che ci occupiamo di questo, che in pratica è andiamo a rivestire ogni singola fibra con un strato di polimero sottilissimo, molto più sottile della fibra. Allora quando tocchi il tessuto non lo senti, e inglobiamo là dentro le particelle. Certo. Allora queste particelle anche se lavi, non viene lavato via. Pierpaolo Pompa, le faccio subito una domanda. Allora, applicazioni di procedimenti nanotecnologici in prodotti di mercato nel campo dei tessuti, beh, insomma, le abbiamo viste da tempo, le prime quando sono arrivate? Sono ormai diversi anni. C'è stato anche un boom negli scorsi anni legato alla nanotecnologia, che ha promosso anche da un punto di vista del marketing il fatto che le nanotecnologie fossero incorporate in prodotti commerciali, insomma, di svariato tipo. E era un plus di vendita, no, questa cosa. Esatto, sono materiali molto avanzati. Però c'era una ricerca, andiamo dietro, 7-8 anni fa, c'era una ricerca che validava la sicurezza di questi materiali? No, assolutamente no, non c'era nessun tipo di regolamentazione e tuttora la regolamentazione è in fase di sviluppo. Sicuramente adesso c'è un'altra consapevolezza, però 7-8 anni fa già erano presenti centinaia di prodotti commerciali in tutto il mondo che erano basati su una serie di nanomateriali, e questo diciamo in maniera un po', come dire, a discapito della sicurezza, perché ovviamente io non voglio dire che questi prodotti sono pericolosi per la salute, però sicuramente non erano stati testati. No. Senta, andavano in tutte quelle direzioni che ci ha detto la Tanassi, oppure erano concentrati specifici sull'antibatterico, per esempio? No, l'antibatterico rivestiva ovviamente un ruolo molto molto importante, però insomma venivano utilizzati anche svariati campi. Quindi anche in svariati campi. Ma veniva scritto sopra nanotessuto, ad esempio? Questo dipende dalla fase, diciamo, di popolarità della nanotecnologia. Quindi c'è stata questa fase boom della nanotecnologia, quindi chiunque scriveva che all'interno del proprio prodotto c'erano nanotecnologie, nanoparticelle, e magari questo non era in alcuni casi neanche vero. No, noi le chiediamo due cose molto importanti, che sono stato della ricerca, che sensazione avete voi, che non è solo voi dell'IT, perché lei senz'altro ci dice com'è lo stato della ricerca a livello mondiale, cioè la vostra sensazione è che si possa arrivare verso una grande sicurezza? Diciamo, siamo siamo sulla buona strada, nel senso che grazie a questo, diciamo, senza andare magari nel dettaglio tecnico, diciamo, si è cominciato a comprendere tutta una serie di meccanismi che determinano la tossicità di alcuni tipi di nanomateriali. Un'altra cosa molto importante, si sta cercando di mettere a punto dei test standardizzati per per il testing appunto di tossicità dei nanomateriali, in modo da andare verso un nanocertificazione. La sua sensazione è che sia una tecnologia che possa essere effettivamente valida, però, e questa è l'altra domanda importante, lei ritiene che al momento non si abbiano ancora dati a sufficienza per quanto riguarda un impiego su vasta scala? Insomma, c'è ancora un pezzo di ricerca da lavorare. Esattamente, sì. Sicuramente i risultati sono incoraggianti, la situazione è enormemente migliorata rispetto a 5-6 anni fa. C'è una serie di progetti europei che vanno proprio nella direzione della nanocertificazione. Sono confidente che nel giro di pochi anni ancora si possa arrivare, diciamo, a una situazione che garantisca molto di più il consumatore. C'è ancora un piccolo gap da colmare. Per concludere, proprio brevemente le chiedo, ma quali potrebbero essere gli effetti, senza creare appunto allarmismi inutili, di un prodotto che può essere appunto nanotecnologico, e la nanotossicità quali effetti può avere, insomma? Tipicamente il fatto che il tessuto sia semplicemente a contatto con la pelle non dovrebbe creare degli effetti, diciamo, dal punto di vista della tossicità, insomma, eclatanti, perché comunque la pelle costituisce un'ottima barriera per proteggere l'organismo. Detto questo, un uso indiscriminato, prolungato di un nanomateriale, che può essere, insomma, un nanoargento, nanocadmio, oppure l'ossido di zinco, questo al momento nessuno può dirlo, insomma, quindi è la ragione per cui sono necessari i test ulteriori. Bene, allora noi vi ringraziamo, grazie Atanasio, grazie Pompa. Buona ricerca allora. Grazie. Grazie a voi. Arrivederci. Allora, adesso tocca a voi, ascoltatori e ascoltatrici, andate a www.moebiusonline.eu, lì potrete partecipare a un sondaggio. In pratica la domanda di fondo è: ritenete, come in tanti altri campi, che qualora la ricerca scientifica attesti che non ci sono problemi tipo tossicologico nell'uso di nanotessuti, ritenete allora che si potranno, vorrete utilizzarli, oppure a priori non vi fidate della ricerca e li di quello indossereste? Che una pausa adesso e poi parliamo di zanne, corazzi, veleni, cimici assassini. Se tu avessi delle zanne più pronunciate di quelle che hai già, che sono tremende, e avessi pure una corazza, come potrei fermarti avvelenandoti, a meno che tu non fossi A meno che io non fossi una cimice assassina. Abbiamo messo dentro tutto? C'è anche altro, no? Beh, caspita, ce ne sono di esemplari in mostra, vi anticipo questo. Mantide orchidea, rana muschio, il pesce fuor d'acqua, la cimice assassina e chi più ne ha più ne metta. Però adesso... la mostra è zanne, corazze e veleni. Allora sì, ecco, diamo un contesto: zanne, corazze e veleni è la mostra che in questo momento è in corso al Museo Civico di Storia Naturale di Genova e lo sarà fino al 15 di giugno e ovviamente qui al telefono abbiamo il curatore, nonché colui che ha fatto tutte quelle foto meravigliose che ci sono in mostra. Diamo il benvenuto a Emanuele Biggi. Ciao Emanuele. Ciao a tutti, ciao amici di Moebius. Ciao Emanuele. Ciao. Ecco, bentornato, perché ormai lo sappiamo, ogni tanto arrivi un po' per parlarci di ragni, un po' perché sei divulgatore, naturalista e sei conduttore di Geo su Rai 3, e però questa volta ti sei messo alla prova e hai voluto fare anche il curatore di questa bella mostra che prevede anche degli esemplari vivi, giusto? Sì, guarda, in pratica la mostra è una mostra innanzitutto scientifica, e io sono anche fotografo come sapete, ma in questo caso non si tratta di un vernissage fotografico basato sull'arte della fotografia di natura, ma si tratta proprio di una mostra scientifica che, oltre ad avere pannelli che illustrano, no, gli aneddoti e le storie più interessanti di un mondo di cui parleremo tra poco, illustra anche proprio animali vivi, fa vedere animali vivi. Ci sono 16 terrari in tutto, in cui questi animali sono posti in ambienti che ricreano il loro ambiente naturale. Dici un po' di questi, sì, dai, quali entra sono? Nel dettaglio di qualcuno. Ad esempio, noi siamo partiti con nei titoli la mantide orchidea. È possibile vederla, è un esemplare veramente strepitoso da vedere. vedere, ecco, in radio purtroppo non possiamo farlo vedere, però ce lo puoi descrivere. Quanto è grande? Beh, la mantide orchidea, come gli altri ospiti della mostra, si chiama Zanne Corazze Veleni, l'avete detto, e per dovere di cronaca è curata da me e da Francesco Tomasinelli, che è anche lui è anche autore della mostra, ma non solo, anche delle foto che ci sono in mostra. Ci sono degli individui davvero interessanti, la mantide orchidea è una fra questi. Lei vive sembrando e mostrandosi come un fiore di orchidea e anche di altre piante che vivono nelle foreste della Malesia dove vive, e quindi riesce in qualche modo a camuffarsi non soltanto dai predatori più grandi che vorrebbero mangiarsela, ma e soprattutto si camuffa dalle prede che lei sta aspettando, fa un sit and wait, un siedi e aspetta, finché un insetto alato che è in cerca di un fiore da trarre un po' di nettare da succhiare si avvicina pensando di avere a che fare solo con un fiore. In realtà sul fiore c'è in attesa questa mandide che in tutto e per tutto è simile ai petali, e quindi addirittura ha delle linee sul corpo che mimano le piste di atterraggio che hanno i fiori per instradare gli insetti per l'impollinazione. Sì, ma scusa Emanuele, qui mannaggia, noi abbiamo la radio, però cosa vuol dire che è simile a un fiore? Anche i colori sono proprio... La forma del corpo? Esatto, le gambe stesse, le zampe stesse della mantide sono allargate a simulare dei petali. E appunto poi ha questa colorazione interna sul torace, diciamo, delle piccole linee che mimano proprio la capsula dove è contenuto il polline, quindi dove il fiore ha interesse che l'insetto vada. Senti Emanuele, la mantide è famosa in natura anche per mangiarsi, per divorarsi il compagno. Questa non lo fa o lo fa? Questa è fantastica perché è una mantide davvero particolare anche nella riproduzione. Infatti il maschio di questa specie è molto più piccolo della femmina da adulto. E ha anche zampe più lunghe ed è anche un abile volatore rispetto alla femmina. Le mantidi sono dei cialtroni nel volo in generale. Lui è abbastanza bravo a volare. Sì, vola abbastanza bene. E cosa fa? Intanto la prende da dietro, brutta frase da dire, ma cerca di raggiungerla. Non elegantissimo, Non elegantissimo, esattamente, però comunque cerca di raggiungerla arrivandole dal posteriore. Le salta addosso, a quel punto lì la femmina, come reazione, ha di toglierselo di dosso. Soltanto che è piccolo, lei non riesce a girarsi completamente e raggiungerlo per rimuoverlo. In più lui inizia a tamburellare, mentre si accoppia nel frattempo con lei, inizia a tamburellare dolcemente sulla schiena della femmina per in qualche modo calmarla. È un codice che hanno loro, che funziona abbastanza se lui non è proprio un imbecille. E a quel punto lì, dopo l'accoppiamento, lui cosa fa? Salta via, vola via, scappa via. Sfugge. E la femmina a gambe levate, come si suol dire. Esatto, è un Don Giovanni del regno delle mantidi. Normalmente le mantidi invece, quelle più classiche come le nostre dei prati, loro sì, effettivamente decapitano classicamente il maschio in una grande percentuale di volte. Ecco, questo perché c'è un'altra strategia di accoppiamento. Va bene. È sempre legato a un... Cosa c'è? Basta, procediamo. Io vorrei che tu raccontassi il saltavano, cioè questo pesce letteralmente fuori d'acqua. Sì, il saltafango l'abbiamo voluto mettere perché, per gli scienziati, chiamato Periostalmus, perché è un pesce molto particolare, è un predatore, quindi rientrava nella categoria degli piccoli animali del microcosmo che abbiamo voluto inserire in questa mostra. Non ha particolari spine o veleni, però è un grande predatore e ha trovato una nicchia dove mangiare molto particolare. Cioè lui va a mangiare e vive fuori dall'acqua per la maggior parte del tempo. Cioè, allora aspetta, Emanuele, descriviamolo un attimo, perché io incuriositissima sono andato a vederlo. E praticamente ha le sembianze di un pesce, però con delle zampette da rana. Sì, praticamente sì, cioè le sue pinne, soprattutto le pinne pettorali, sono mutate per fornirgli un appoggio e anche una deambulazione fuori dall'acqua. Ok. Quindi gli servono proprio come delle zampe. In più ha questi occhi enormi, un po' ridicoli per i nostri canoni, diciamo, facciali, che però sono molto efficienti fuori dall'acqua. Fuori dall'acqua. Lui riesce a cacciare bene, come fosse una specie di rana, però del mondo dei pesci, ricordiamolo. Infatti, riesce a cacciare fuori dall'acqua. Infatti anche la classificazione è stata un po' controversa, perché all'inizio, insomma, non si sapeva bene se fosse un anfibio o un pesce. Certo, questo pesce va nei villaggi vacanze, mangia e poi torna. Ecco. E poi fate che salti... nei villaggi vacanze, in realtà nei villaggi vacanze lo si può vedere, perché spesso stanno vicino a zone dove i cani sono lì dove si mangia, certo. Sì, esatto. Lo trovi in coda al buffet, al buffet. E fa dei salti incredibili per uscire fuori, vero? E per fregare sì, la fila assolutamente anche. È in grado di saltare anche molto in alto, perché chiaramente tu sei fuori dall'acqua, no? Hai bisogno di trovare del cibo, il cibo non sempre ti cammina davanti appunto su un piatto oppure al buffet, no. Devi anche un po' procacciartelo, e quindi lui riesce un po' goffamente a camminare, e per lo più quando deve predare qualcosa riesce a fare degli scatti pazzeschi in avanti o in alto per riuscire ad acchiappare un granchio o un insetto volante. Scusa però, ma come respira? Respira perché riesce, tutta questa evoluzione di questo pesce è dovuta al fatto che in acqua dove vive, nel mangrovietti dove vive, c'è poco ossigeno in acqua, perché sono acque molto molto poco ossigenate spesso, perché sono soggette a maree eccetera eccetera, per cui ha sviluppato un sistema di chiusura ermetica dell'opercolo branchiale, cioè quindi delle capsule delle branchie, in cui ingloba dentro dell'acqua, cioè chiude dentro dell'acqua, che non solo ha la funzione di sorreggere le branchie che altrimenti senza acqua collasserebbero e diventerebbero inefficienti, ma proprio l'acqua e l'umidità che viene mantenuta permette di scambiare gas con l'aria, non con l'acqua. Quindi ha un meccanismo per cui interagisce con l'aria fuori, perché sennò avrebbe pochi minuti, magari non di più. Sì. Ma non solo, se voi tenete questo pesce forzatamente sott'acqua, anche in acqua anche relativamente ossigenate, dopo un po' di tempo affoga. Non ce la fa, perché non ce ha bisogno. È nato bisogno per essere pesce, ma lui non vuole essere pesce. È così. Esatto, c'è un conflitto interno. Andiamo, sì. Vuole essere pesce. Andiamo avanti, vabbè, perché ce ne sono troppi. Pesce, ce ne sono troppi. Allora, la rana muschio. La rana muschio è un altro animale che in mostra è molto particolare. È una rana originaria del nord del Vietnam. E non solo si è evoluta per avere il colore del muschio, i colori, no? La marezzatura. Verdolina. Verdolina tipica dei muschi, ma anche delle escrescenze su tutto il corpo. Tipo che muschio. Di mimare, esatto, i ciuffetti di muschio che vivono intorno a lei. Ma toccandola l'effetto è un po' quello del muschio o è più rigida? Potremmo dire che è un effetto un po' simile alla scrittura Braille per i non vedenti, cioè è più rigida, è un po' più rigida, cioè abbastanza rigida. Non potremmo usarla per il presepe, no. Però ecco, se la mettete nel presepe state molto attenti che potreste non vederla più dopo poco. Sì, e questo è veramente veramente mimetismo. E questa è una tecnica, ecco, di mimetismo, tu confermi, o anche, non so, sessuale, per esempio? No, guarda, in questo caso è puramente mimetica, è il camuffamento proprio dovuto al fatto che lei non vuole farsi mangiare da predatori più grandi di lei, che potrebbero avere interesse, no, a gustare una rana muschio del Vietnam. E ha anche un altro tipo di protezione, che è quella di giocare, si chiama al morto, fa il play dead cosiddetto, quando finta la di essere prende morta. In mano. Esatto, questo è molto bello. Eh sì, perché non solo acquisce l'idea che uno ha di avere in mano una zolla di muschio, ma anche se scoperta, comunque in natura un animale morto non sempre è ben conservato in frigo, no? Anzi, mai. No. E quindi non si mangia di solito un animale morto in natura, almeno i predatori tendono ad avere. Il predatore lo sa, riconosce questa condizione, certo. Questa... Facciamo così, 30 secondi per la cimice assassina con la quale abbiamo aperto. Esatto, cos'è questa? Noi abbiamo in mostra delle cimici assassine africane che si chiamano platimeris, e hanno la particolarità di avere questo rostro con cui non succhiano la linfa delle piante come altre cimici, ma succhiano la linfa degli insetti, delle prede che si nutrono. Quelli che abbiamo in mostra sono i platimeris, e sono animali con una colorazione gialla e nera che avverte che comunque hanno questa saliva tossica e quindi possono anche usarla per difendersi. C'è un'altra cimice assassina però che abbiamo nei nostri pannelli fotografici, che si chiama Cantaspis, che è molto particolare perché le larve di questa cimice arrivano addirittura a ricoprirsi dei cadaveri delle proprie vittime, che sono per lo più formiche. Essendo formiche, già sono disgustose a molti predatori, le formiche in sé, perché non sono di solito molto commestibili, a parte per questa cimice. In più, questa cimice arriva a somigliare del tutto a una specie di cacca di animale insettivoro, di un uccello, immaginate. Ma che bella vita, no? Che cioè, fa una roba immangiabile, ecco. Una roba immangiabile per cui è salva, ecco. È salva, esattamente. Ci terrei a precisare una cosa: tutti gli animali vivi che abbiamo in mostra sono nati in cattività e non sono stati presi in natura, proprio perché la nostra etica è quella di diffondere la conservazione anche di questi animali. Quindi va bene, facciamoli vedere, ma non li portiamo via dalla natura. Bravo, hai fatto bene a specificarlo. Allora aspetta, che voglio ricordare assolutamente fino a quando è possibile vederli, perché ne vale veramente la pena, fino al 15 giugno al Museo di Storia Naturale di Genova. Grazie mille Emanuele e a presto. Buon lavoro, grazie ciao. Grazie mille a tutti, ciao, a presto. Ciao Emanuele. Torniamo al traffico, vediamo se è cambiato qualcosa e poi ci avviamo verso la conclusione. Alzheimer, purtroppo sappiamo tutti che cosa sia, c'è molta ricerca scientifica su questa malattia, ci sono anche buoni indizi sui possibili risultati positivi, ma l'attenzione oggi e per un tempo che non è possibile prevedere, l'attenzione va posta su come gestire un malato, una malata di Alzheimer. Una gestione che è certamente fatta anche di attenzioni, uso un termine che potrebbe sembrare un po' aspro, ma insomma ci intendiamo, attenzioni tipo tecnico, insomma bisogna conoscere questa malattia, ma soprattutto è il rapporto umano, è la relazione empatica che deve essere sviluppata con una persona con questa malattia, perché si creino condizioni migliori, condizioni positive anche e soprattutto, certo, per il malato. Il sorriso di Candida. Candida è una mamma in là con gli anni, affetta da Alzheimer e ha davvero un bel sorriso. Lo vediamo in un breve film, è un corto di 16 minuti che ha appunto questo titolo, Il sorriso di Candida, scritto da Rita Bugliosi, che è una giornalista, una collega e una divulgatrice scientifica, lavora per l'ufficio stampa del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, e dal regista Angelo Caruso. E il corto è patrocinato dall'Associazione Italiana Malattia d'Alzheimer, dal CNR e anche dall'EBRI, l'European Brain Research Institute. E poi ve lo diremo, insomma, questo film sarà proiettato al Festival della Scienza di Roma, che inizia, si terrà la prossima settimana. Per parlare allora di quello che emerge, e adesso vediamo in che modo, da questo filmato e in particolare in generale di che cosa significa questa attenzione agli aspetti empatici, alla relazione umana con i malati di Alzheimer, ho qui con me questa sera Sara Mondini. Buonasera Sara Mondini. Buonasera agli ascoltatori. Docente di psicobiologia all'Università di Padova e poi lei lavora anche sul campo, insomma, come neuropsicologa in una clinica di Cremona. Allora, senta, io con lei vorrei ascoltiamo insieme un primo passaggio, un secondo passaggio, un estratto audio, ma sono brevi, dal filmato Il sorriso di Candida. Allora, sentiamo il primo. Mamma, ora andiamo da Paolo e Anna, sai? Sono i miei figli? Sì, brava mamma. E tu chi sei? Mamma, io sono Claudia. Ti ricordi che hai 3 figli, vero? Paolo, Anna e Claudia. Claudia vive a Milano. Mamma, io sono Claudia e vengo a Roma apposta per salutarti. Che bello, non mi sembra vero. Eccoli là, li riconosci? Ciao mamma, come stai? Così così, tesoro. Sei sempre bella, lo sai? Tu sei bella. Sei mia figlia, vero? Sì, mamma. Sono Anna. Ecco, questo era un primo estratto, no, Sara Mondini? Sono questi 3 figli che vanno a trovare Candida, che è la loro mamma. Qui quello che noi vediamo è una delle classiche manifestazioni, cioè questa donna sembra non avere praticamente memoria corta, no? Deve continuare a ridirsi, ah, tu sei mia figlia, no? Sentiamo un altro passaggio e poi incominciamo a parlare. Dov'è Stefano? Perché non è venuto? Papà è morto, mamma, 10 anni fa, ad agosto. Agosto, moglie mia, non ti conosco. Stefano dice sempre così, ad agosto. Ma Stefano dov'è? È a fare gli straordinari? Sì, mamma. Ecco, e abbiamo inserito anche questo aspetto. Lei non ricorda che il marito è morto, ma poi quando le dicono che non c'è più, lei in fondo dopo pochi secondi dice ma dove è andato? No? Come mai non è qui? Sì. Qui che cosa abbiamo? Allora, c'è un deficit di base che è quello della memoria. Sì, allora in questa malattia chiaramente, come tutti sanno, il disturbo principale e il disturbo che viene riconosciuto prima dal paziente stesso e dalle persone che gli stanno a fianco è il disturbo di memoria. E in questa paziente è macroscopico, è in una fase della demenza avanzata, perché è importante ricordare che è una malattia che ha dei primi sintomi iniziali e poi procede nel tempo, anche per molto tempo. E il caso di Candida è di una paziente che è ormai in una fase piuttosto avanzata della malattia, tant'è vero che la paziente vive in una casa assistita sempre da qualcuno, perché ad un certo punto le persone non possono più essere autonome, non hanno nella loro casa nessuna autonomia. Il filmato però descrive molto bene il fatto che questa donna ha una sua serenità, sorride, ha una buona relazione con i figli, anche se c'è questo strano rapporto per cui, come dire, li deve riconoscere continuamente. E allora qui io vorrei incominciare a introdurre il tema centrale di questa conversazione che facciamo. Il Festival della Scienza di Roma è dedicato al linguaggio, no? Certo, e dentro questa costruzione di una relazione empatica con il paziente, con il parente, la madre, insomma, in questo caso, c'è, e il filmato lo fa vedere, ma non è che lo descrive direttamente, lo si vede, per questo è molto bello, c'è l'importanza della costruzione di un linguaggio, che non è fatto solo di parole. Questo è qualcosa che non si fa molto, anzi mi pare che si faccia poco. Che cosa significa? È vero che il disturbo principale è la memoria, e questo si vede, la signora non ricorda la morte del marito, la signora non ricorda che ha tre figli, non li riconosce. Tuttavia, nel momento in cui, in questo scambio linguistico un po' frammentario, la signora si rende conto che ha vicino i suoi tre figli e viene rassicurata, la toccano i suoi figli, le sorridono, è molto serena. È sufficiente che qualcuno le dica: mamma, siamo i tuoi figli, siamo qua, che lei ricordi in modo un po' stereotipato il nome dei suoi figli e è contenta e sorride. Le dicono anche, quando lei ricorda: ma dov'è Stefano? Sta facendo gli straordinari? Giustamente la figlia, una prima volta, ad una prima richiesta, dice: mamma, il papà è morto. Sì. E dopo una seconda richiesta, quella che avete fatto sentire, la figlia capisce che è inutile cercare di farle ricordare qualcosa. È sufficiente dirle: si sta facendo gli straordinari. E questa cosa rasserena la madre, perché manca ovviamente quel ragionamento logico che le permetterebbe di dire: ma sì, fa gli straordinari, ma è morto. Cioè, è importante che sia tranquilla, che abbia attorno a lei delle persone che la rassicurano. E poi la toccano spesso, la prendono per mano. Sì, questa è una parte del linguaggio che dalle vostre ricerche bisogna sviluppare. Nel mio intervento io insisterò molto su questo aspetto. Nel momento in cui il linguaggio verbale è così molto povero, nel senso che la signora, come si sente, risponde e dice qualcosa, ma non è più in grado di fare di costruire un discorso, di avere l'iniziativa, di formulare un discorso preciso, è comunque utile riuscire ad interagire con il malato attraverso gli sguardi, i sorrisi e il contatto fisico. Quindi nel filmato si vede molto spesso che prendono per mano, che le stanno vicino, che la toccano, e questa è una cosa che è conservata, come dire, nei pazienti anche in fase piuttosto avanzata come in Candida. E quindi voglio essere con un esempio molto concreto, quelle idee che potrebbero venirci del dire: beh, insomma, si deve alzare, è meglio che impari a farlo da sola. No, invece prendendola per le mani e tirandola su è importante, perché in quel modo si stabilisce una relazione. Ovviamente anche questo dipende dalla fase della malattia. La fase della malattia in cui si trova la protagonista del film è una fase così avanzata in cui è inutile che io cerchi di far fare al paziente qualcosa per cercare di stimolarlo, perché è ormai in una fase in cui fa così tanta fatica che invece è meglio, diciamo, accompagnarlo. Ovviamente se si fosse invece in una fase iniziale è utile con una certa misura, senza esagerare, fare in modo che il paziente nelle fasi iniziali continui a svolgere da solo tutto quello che può per cercare di mantenere, diciamo, quelle capacità che pian piano verranno perse. Sara Mondini, la sua conferenza a Roma al Festival della Scienza quando sarà? L'auditorium? Sì. Che giorno? Allora, l'appuntamento è per domenica alle 3 del pomeriggio. Non, domenica prossima, no? La prossima domenica, il 26. Io ricordo che c'è una pagina Facebook, Il Sorriso di Candida, dove si possono avere molte informazioni per poter vedere questo film. È un film molto utile, molto efficace per tutti coloro che volessero organizzare dei momenti, per esempio, di riflessione su questa malattia. È un'ottima introduzione anche dal punto di vista emotivo. Sara Mondini, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Ascoltatrici e ascoltatori, abbiamo solo 6 secondi per dirvi, ci vediamo qui fra 7 giorni, fra una settimana. Arrivederci.